America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Ieri nel tardo pomeriggio una notizia drammatica è stata diffusa dalle reti televisive americane. Sentiamo l'annuncio. This is the first case of Ebola diagnosed in the US and as far as we understand of this strain of Ebola diagnosed outside of Africa. Avete sentito Thomas Frieden, direttore del Center for Disease Control and Prevention, un centro di Atlanta per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive, che annuncia all'America il primo caso di Ebola fuori dall'Africa. Per quel che ci risulta, dice, si tratta del primo caso, non soltanto in America, ma al di fuori del continente africano, di questa pericolosissima malattia infettiva. È il primo caso che si manifesta e dunque lo stato d'allerta a questo punto si diffonde a livello internazionale. Ma sentiamo che cosa aveva detto non più tardi di qualche settimana fa, per l'esattezza il 16 di settembre, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. First and foremost, I want the American people to know that our experts here at the CDC and across our government agree that the chances of an Ebola outbreak here in the United States are extremely low. Ecco, avete sentito Obama che parlava proprio al CDC di Atlanta e descriveva le terribili conseguenze di questa epidemia che sta affliggendo l'Africa, soprattutto la Liberia, ma diceva specificatamente che le minacce, le possibilità che un caso di Ebola arrivi in America sono minime. Ecco, il caso invece si è verificato appena 2 settimane dopo. I dettagli sono che un uomo che è arrivato la settimana scorsa dalla Liberia a Dallas, in Texas, è risultato positivo all'Ebola. La conferma, come vi dicevo, è stata data ieri da Thomas Frieden. Cosa è successo? L'uomo è arrivato, è andato a casa a visitare dei parenti, ma a quel punto era già infetto, anche se non vi erano delle manifestazioni evidenti della malattia, e dunque è venuto a contatto con dei familiari che visitava. Non abbiamo il nome della persona, per questioni di sicurezza e anche di protezione della famiglia per ora non è stato diffuso il nome, e dopo qualche giorno questa persona ha cominciato a sentirsi non bene, aveva della febbre, è andato a un pronto soccorso, dunque di nuovo a contatto con altre persone, lo hanno visitato, lo hanno rilasciato, è tornato a casa, stava peggio, è andato in ospedale, lo hanno ricoverato. Soltanto a quel punto è emerso il sospetto che potesse essere Ebola. È stato fatto un prelievo del sangue, è stato inviato ad Atlanta, appunto al CDC, e proprio ieri la conferma era positiva. Ci si domanda con quante persone è entrata in contatto questa persona che ha contratto l'epidemia. Se viene identificata e combattuta in tempo con cure adeguate, con antibiotici adeguati, la malattia può essere sconfitta, ma come sappiamo, purtroppo, soprattutto in Africa, ha portato alla morte ormai oltre 3.000 persone, e c'è qualcuno che dice che siano molte di più. Ma sentiamo di nuovo Frieden in conferenza stampa. The next steps are first to care for the patient. Ecco, Frieden intanto anticipa quali sono le prossime mosse del CDC. Intanto dobbiamo occuparci del paziente, dice, fornendo le cure più efficaci nel modo più sicuro possibile per ridurre al minimo la possibilità di un contagio ulteriore. In secondo luogo, identificare tutte le persone che sono venute a contatto con il paziente e che possono essere state esposte al virus e monitorare queste persone per i prossimi 21 giorni, che è il periodo di incubazione della malattia. Detto questo, dice Frieden, siamo certi di poter contenere il rischio di un'epidemia proprio perché siamo riusciti a intervenire immediatamente, siamo riusciti ad evitare che ci fosse un rischio di contagio, ma questo purtroppo non potremo saperlo per i prossimi 21 giorni. Quali sono le componenti essenziali dell'Ebola? Intanto c'è un periodo di incubazione, come vi dicevo, di 3 settimane, e poi i sintomi: febbre, dolore muscolare, vomito e poi sanguinamento. Il contagio avviene solo quando ci sono i sintomi della malattia, non quando si è nel periodo di incubazione, ed è un virus di cui ci si può liberare lavandosi semplicemente le mani, anche se il contagio avviene soltanto attraverso una trasmissione di fluidi fra persone. Non c'è per ora alcuna cura, c'è un vaccino che è in fase di sperimentazione. Purtroppo il tasso di mortalità è arrivato al 90%. Today I'm announcing a major increase in our response. At the request of the Liberian government, we're going to establish a military command center in Liberia to support civilian efforts across the region. Ecco, Barack Obama ha parlato di Ebola alle Nazioni Unite, non è stato il solo, ne hanno parlato tutti, un po' tutti i leader hanno dichiarato di voler intervenire per aiutare l'Africa occidentale. Gli Stati Uniti in particolare, il 16 settembre scorso, con un discorso del presidente Barack Obama, hanno annunciato un intervento militare, addirittura su invito del governo liberiano è stata costituita una base, sono stati inviati 3.000 soldati, sono stati costituiti dei campi per isolare coloro che hanno contratto l'Ebola, sono stati inviati migliaia di letti, sono stati preparati dei kit, dei pacchetti per spiegare alla gente come si può identificare la malattia. Insomma, uno sforzo complessivo sul piano operativo, su quello dell'intervento di specialisti, che è costato finora 750 milioni di dollari. Altri paesi si sono mobilitati, ma questo caso, devo dire, ieri ha colpito gli americani, già preoccupati da mille altre crisi che avvengono nel mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive questi tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vorrei riprendere un fatto di cronaca per introdurre la canzone del giorno, e cioè Omar Gonzalez, un signore che a un certo punto ha deciso di entrare nella Casa Bianca. Cosa ha fatto? Ha scavalcato i cancelli, ha fatto una piccola corsa nei prati della Casa Bianca, è arrivato a una porta, la porta era aperta, è entrato dentro la Casa Bianca, è andato al primo piano, il piano nobile dove ci sono i saloni di ricevimento, è arrivato nella East Room. Quando è entrato, aprendo la porta, c'era un agente, ma è riuscito a neutralizzarlo, pensate, un agente del servizio segreto che deve proteggere il presidente, e a salire le scale e arrivare nel piano nobile della Casa Bianca, è andato fino alla East Room. A quel punto si è scatenata la caccia all'uomo, è entrato nella Blue Room, la sala dove il presidente Obama ha offerto una cena al presidente dell'India Modi, e lì è stato finalmente bloccato. Uno scandalo. Julia Pearson, la numero uno del Secret Service, che è l'agenzia che si deve occupare specificatamente della protezione del presidente americano e dei capi di Stato stranieri, si è trovata in gravi difficoltà. In una sua audizione in Parlamento è stata attaccata duramente per questo episodio che sembra incredibile, e qualcuno chiede già le sue dimissioni. Alla Casa Bianca comunque dedichiamo la canzone del giorno con una canzone di Vanessa Carlton, White Houses, Case Bianche. So far from where I've been, so I go, and I will not be back here again. I'm gone as the day is fading on White Houses alive. But my injury's all in the dust. In my heart is the five of us. White Houses and you. Maybe you remember me. What I gave is yours to keep. White Houses. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.